Storie italiane. Il pane d'oro. C'era una volta, in un piccolo villaggio, una donna di nome Mariam, che viveva con la sua unica figlia, Narcisa. Mariam era estremamente umile e dolce. Narcisa, invece, era completamente diversa. Vedete, era bellissima in un modo indescrivibile. Era come una bambola vivente. E la parte più divertente è che amava se stessa più di qualsiasi altra cosa. Narcisa, mi aiuteresti a preparare il pane? Ah, mamma, la farina potrebbe finire nei miei occhi scintillanti. Narcisa, mi aiuteresti a piantare questi semi? Cosa? Perché dovrei farlo? E se poi mi sporcassi le adorabili dita? O peggio, se mi sporcassi il viso? Bene, quello era il problema con Narcisa. Si considerava troppo brava per fare qualsiasi lavoro. Molti pretendenti andarono a chiedere la mano di Narcisa in matrimonio, poiché la sua bellezza era conosciuta in lungo e in largo, ma lei li respingeva tutti molto sgarbatamente. Perché hai mandato via quegli uomini ieri? Sembravano carini. Non puoi essere seria, mamma. Uno di quelli aveva gli occhi così piccoli, quasi come un uccello, e l'altro aveva un naso grande. Non vorrei essere vicino a lui quando starnutisce. E l'ultimo... Basta! No! Non voglio più sentire! Tutto quello che ho potuto vedere è che quegli uomini erano davvero carini. Mia cara, devi capire che la bellezza non è tutto. Mamma, devi capire che io merito qualcuno come un principe o un cavaliere. Oh, cara. Una notte, mentre dormiva, sua madre si sedette al suo fianco osservandola. Mia cara figlia... Sei così bella e adorabile, ma non ti importa di nient'altro che della tua bellezza. In quel momento Narcisa iniziò a ridere nel sonno. Sua madre ne fu estremamente sorpresa. Che carina! Starà facendo un sogno davvero divertente. La mattina dopo, quando Narcisa si svegliò, era tutta sorrisi e risatine. Ecco, tesoro. Dimmi, cosa hai sognato ieri notte? Oh, mamma, ho fatto un sogno così fantastico, sai? C'era questo principe che veniva da me dicendo di volermi sposare. Era arrivato con una carrozza d'oro ed era vestito dalla testa ai piedi in oro. Che sogno sciocco! E sai qual era la parte migliore? Quando ho indossato il mio abito da sposa, che era anch'esso d'oro ovviamente, tutti mi fissavano. Narcisa, non c'è niente di straordinario in quel sogno. Era un sogno davvero molto egoistico. Mamma, non sai cosa stai dicendo. Quel sogno mi ha fatto capire che ho bisogno di cibo molto più lussuoso di quello che mangio qui a casa. Pane fatto d'oro. Pensaci. La povera madre di Narcisa era così preoccupata per sua figlia e per come avrebbe vissuto la sua vita. Quel giorno due amici vennero a trovare la madre di Narcisa. Erano Melly e Terry. I tre erano amici da anni. Ma Terry ed Ellie avevano un segreto. Erano esseri magici. Cosa di cui la madre di Narcisa non sapeva nulla. Terry, Melly, oh, è così bello vedervi. È passato molto tempo, no? Così tanto. Come stai? Sto molto bene. Ma starei meglio se solo... Se solo cosa? Se solo mia figlia, Narcisa, fosse un po' più comprensiva. Mariam raccontò a Melly e Terry tutto di Narcisa e di come fosse preoccupata per lei. Lei vuole mangiare pane fatto d'oro. Cosa faccio con lei? Beh, forse se il suo sogno diventasse realtà... Sarebbe meraviglioso, no? Beh, non importa. Immagino che col tempo crescerà e imparerà. Parliamo di qualcos'altro ora. Più tardi, Mellie e Terry salutarono la loro vecchia amica e se ne andarono, sorridendo segretamente. Quella sera, madre e figlia si prepararono per andare a letto. Mamma, spero davvero che il mio sogno diventi realtà, sai? Ah, Narcisa. Il giorno seguente, mentre Narcisa e sua madre erano fuori nel loro giardino, una bellissima carrozza d'oro andò verso di loro. Era tempestata di gemme e diamanti ed era assolutamente bellissima. Quando si fermò, un bel giovane ne uscì e guardò Narcisa. Lei rimase completamente abbagliata dalla sua bellezza. Mamma! Mamma! Il mio sogno si sta avverando! Cosa? Ciao! Sono venuto qui per chiedere la mano di Narcisa in matrimonio. Ma come fai a sapere il suo nome? E chi sei tu? Sono Terence, l'angelo delle buone fortune. Il nome e la bellezza di tua figlia sono conosciuti in tutto il mondo. Ecco, ti ho portato un regalo. Oh cielo, mi piacerebbe davvero, davvero sposarti. Cosa? Ma lo conosci appena? Non puoi andare con lui. Ah, che sciocca. È ricco? È bello? Cosa potrei volere di più? Terence, accetto la tua proposta. E con ciò salì sulla sua carrozza e senza nemmeno salutare sua madre, partì con l'angelo. Mentre viaggiavano, la carrozza entrò improvvisamente in un portale magico. Lì viaggiarono attraverso una zona burrascosa. La carrozza sobbalzò tremendamente e Narcisa era molto spaventata. Oh, caro! Oh, no! Cos'è questo? Non preoccuparti, mia cara. Tutto questo finirà presto. E proprio mentre lo diceva, la carrozza passò attraverso un altro portale e raggiunse il vialetto di un enorme e magnifico castello d'oro. Narcisa fu stupita da tutta la bellezza che vide. Wow! Questo è così bello! Sapevo di meritare tutto questo! Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Tutto quello che vuoi lo troverai qui. Dal più grazioso degli abiti al più gustoso dei cibi. Tutto nel mio palazzo. Wow! A proposito di cibo, ho davvero fame! Sono affamatissima. Posso avere un po' di quel cibo gustoso? Ovviamente. Ecco, questa Melissa ti porterà quello che vuoi. Ciao Narcisa. Ho sentito così tanto parlare di te. Povera cara, hai fame, no? Vieni, andiamo alla tavola da pranzo e ti darò del cibo. Grazie. Andarono nella sala da pranzo e lì sul tavolo c'era il cibo più meraviglioso che Narcisa avesse mai visto. Il cibo sembra incredibile. Questo perché lo è? Le marmellate sono fatte di rubini, le insalate di smeraldi e quel pane laggiù è fatto d'oro. Pane d'oro? Che bello! Questa marmellata avrà un aspetto e un sapore delizioso. Prese una fetta, vi spalmò sopra la marmellata di rubini e diede un morso enorme. È così duro? Non posso mangiarlo! Beh, è pane fatto d'oro! È anche il migliore! Ma se non riesci a mangiarlo, devo prenderti il pane d'argento? Argento? Perché non mangi qualcos'altro? Ma io voglio pane normale, pane che posso mangiare. Non ce l'hai? No, la futura moglie del mio signore deve mangiare solo oro. Devi mangiare solo il meglio. Narcisa guardò tutto il cibo, ma le si spezzò il cuore perché era tutto immangiabile. Presto iniziò a piangere. Lasciami andare, non voglio questo. Ma il cibo è davvero buono! Ecco, prova qualche patata d'oro! Sono davvero buone! E dopo che ci saremo sposati, dovrei mangiare tutto questo. Pensavo ti piacessero le cose lussuose. No, no, non voglio sposarti. Voglio andare a casa da mia madre. Lasciami andare a casa. Melissa e Terrence si guardarono e ammiccarono. Bene, se è davvero quello che vuoi, ti porterò a casa. Terrence portò a casa la piangente e infelice Narcisa. In carrozza iniziò a riflettere profondamente sulle scelte che aveva fatto. Quando arrivò a casa, corse ad abbracciare sua madre, che era seduta in casa, triste. Mamma, mamma, sono qui! Narcisa, oh la mia dolce figlia, pensavo che non ti avrei più vista. Oh mamma, ti voglio tanto bene e avevi ragione. Aspetto esteriore e ricchezza non sono tutte. Il pane d'oro è inutile perché non si mastica e quell'uomo, anche se era bello, non gliene importava niente. Ma mia cara, ti rendi conto che è esattamente così che hai trattato gli altri? Lo so, mi dispiace molto per quello che ho fatto. Oh, va tutto bene ora, perché hai capito quali errori hai commesso. Vieni, ti darò qualcosa di buono da mangiare. Da quel giorno in poi, Narcisa cambiò molto. All'inizio fece fatica, ma lentamente e pazientemente divenne molto più gentile. Un giorno, Melly e Terry tornarono a trovare Marian. Oh, ciao amici! Allora dici, Marian, come sta Narcisa ora? Marian disse loro tutto quello che era accaduto. E da allora è cambiata davvero molto. Davvero? Immagino che non voglia più pane d'oro ora, eh? Sai, Terry, in realtà assomigli un po' a quell'angelo. Oh, cosa sto dicendo? Come potresti essere tu? Voi due siete così bravi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,